Letture di Radio 24. Il permesso di soggiorno sta per scadere? In Olanda non è più un problema, da quando un quiz televisivo mette in palio i soldi per facilitare il rimpatrio. Si intitola Weg van Nederland, un gioco di parole che può significare lasciare l'Olanda, ma anche essere pazzi per l'Olanda. Ed è il provocatorio programma trasmesso dal canale pubblico olandese VPRO. Protagonisti, cinque immigrati che, esauriti i tentativi legali per poter rimanere nel paese, stanno per essere rimpatriati. I concorrenti, dunque, sono chiamati a rispondere a domande su cultura, lingua e storia olandese. Al vincitore andranno 4.000 euro, utili a facilitare il rimpatrio, mentre tra i premi di consolazione c'è anche un giubbotto antiproiettile. Quando mi è stata proposta l'idea, racconta il responsabile della rete, Frank Wiering, il mio primo pensiero è stato: è orribile, non faremo mai una cosa così. Poi ci ho riflettuto e ho capito che invece dovevamo farlo. Vogliamo dimostrare come molti immigrati siano perfettamente integrati nel nostro paese, spiegano gli autori. Sono persone che hanno studiato, parlano benissimo la nostra lingua, crescono qui i loro figli e magari hanno visto i loro paesi d'origine solo in TV. L'idea è piaciuta al Consiglio Olandese per i Rifugiati, una ONG che si occupa dei diritti di chi cerca asilo. Speriamo che lo show stimoli la gente a riflettere sul trattamento riservato ai rifugiati, dice un rappresentante dell'associazione, e li aiuti a capire che genere di situazioni devono affrontare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Carla Attene, Il quiz di culture in TV per gli immigrati in via di espulsione. Da venerdì di Repubblica del 13 settembre. Pratiche razziste è l'accusa contro Google apparsa sul blog statunitense Huffington Post. Pare infatti che il motore di ricerca penalizzi gli inserzionisti afroamericani e ispanici. Da qualche tempo l'immagine di Google sta perdendo smalto. Mentre lo slogan con cui la società rivendica lo status di .com più buona del web suona meno convincente. Nei giorni scorsi il suo presidente Eric Schmidt è apparso in difficoltà nel corso di un'audizione al Senato che, secondo molti, ha contribuito ad accelerare l'avvio di un'indagine per accertare eventuali pratiche monopolistiche da parte del marchio. Fra le molte critiche c'è quella di avere accettato annunci pubblicitari discutibili, prodotti finanziari ad alto rischio, farmaci illegali, eccetera. Ma finora nessuno aveva mai accusato Google di pratiche razziste. Finora, perché il 20 settembre scorso è apparso sull'Huffington Post un lungo articolo di Nathan Newman, noto avvocato e saggista, impegnato nei movimenti per la tutela dei diritti dei consumatori online, che apre questa nuova piaga. Newman non accusa Google di avere consapevolmente messo in atto comportamenti discriminatori, bensì di responsabilità oggettiva per il mancato controllo sulle pratiche dei suoi inserzionisti pubblicitari. Newman, già autore di articoli su certi sgradevoli effetti collaterali delle tecnologie di profilazione degli utenti, ha condotto il seguente esperimento. Usando Gmail, ha scelto nomi agevolmente riferibili a utenti bianchi, afroamericani e ispanici. Quindi li ha utilizzati per gli stessi gruppi di argomenti: ricerca di assistenza legale, acquisto di automobili, educazione, ricerca di lavoro e credito personale. Ebbene, gli annunci pubblicitari associati alle mail sono risultati sistematicamente penalizzanti per i nomi ispanici e afroamericani. Auto di seconda mano, scuole di serie B, lavori dequalificati e mutui più gravosi per soggetti considerati a rischio. Insomma, il software di profilazione applica cinicamente il principio a ciascuno il servizio più adatto, il che, argomenta Newman, contribuisce a perpetuare e aggravare le ingiustizie sociali ed economiche. Quindi, quando Google, Facebook e altre .com vi invitano ad accedere ai loro servizi utilizzando il vostro vero nome, pensateci su due volte. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Carlo Formenti Effetti collaterali di Google e C. Sul web corre la pubblicità razzista, dal Corriere della Sera del 26 settembre. Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, si vanta di agire in nome della trasparenza. ma con il suo comportamento irresponsabile non fa che destabilizzare i rapporti tra gli stati, finendo per favorire i tiranni. Trasparenza? Democrazia? O comportamenti che rasentano la criminalità resi possibili da Internet? L'ultima di Wikileaks di Julian Assange è stata un capolavoro di irresponsabilità, spiattellando in rete, in nome della trasparenza, una nuova ondata di documenti diplomatici riservati degli Stati Uniti. Wikileaks ha svelato i nomi di alcuni monaci tibetani che avevano avuto rapporti con gli americani e ora rischiano rappresaglie da parte delle autorità cinesi. La trasparenza si è rivelata, in questo caso, uno strumento più utile alla causa della tirannia che a quella della democrazia. L'idea di sostituire la trasparenza all'opacità nelle relazioni fra gli stati era un antico cavallo di battaglia della democrazia, soprattutto anglosassone. Nell'Ottocento, quando le democrazie muovevano i loro primi passi nel mondo, si pensava che esse avrebbero rivoluzionato le relazioni internazionali. Non più segreti di Stato, non più riservatezza diplomatica, tipici delle vecchie monarchie, ma diplomazia aperta e la possibilità per le opinioni pubbliche di monitorare e giudicare in ogni momento le politiche estere dei governi. Era un'idea ingenua, non teneva conto di due circostanze: del fatto, in primo luogo, che la democrazia è racchiusa entro confini nazionali, non opera al di là della frontiera, e del fatto che le democrazie sono costrette a convivere con gli stati autoritari. Democratizzare le relazioni internazionali era un bel sogno, ma tale è rimasto. Anche in presenza di un numero assai elevato di democrazie, la politica internazionale è ancora la stessa sfera di attività delicata e pericolosa di un tempo. Che cosa comporta allora la trasparenza alla Wikileaks in un mondo siffatto? Comporta innanzitutto il rischio di destabilizzare rapporti fra stati che esigono, oggi come in passato, di essere condotti con la prudenza e la riservatezza della diplomazia, e comporta il fatto che i danni ricadono sulle spalle sia delle democrazie, le uniche alle quali, come proprio Wikileaks ha dimostrato, è possibile sottrarre segreti, sia di tutti quelli che, come i monaci tibetani, chiedono loro aiuto. Le tirannie, alle quali è assai difficile rubare documenti riservati, hanno solo da guadagnare. È un capolavoro di ipocrisia quello di chi, in nome di astratti principi democratici, imbarazza e indebolisce proprio l'azione diplomatica delle democrazie. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Angelo Panebianco, Wikileaks aiuta i tiranni, dal Magazine 7 del 15 settembre.